brigade, brigade, brigade, brigade. Signor del canale 10, state tutti dormendo? Chi è sul canale 10 che rompe le scatole mettendo solo portante? Ciao, che d'argento, sì, positivo, ti ascolto bene. Ok, il segnale è 8 e la radio è 4, non è perfettamente, è 4, non è 5. È un po' meglio la radio, comunque non so se sono io che sto ascoltando che stanno mettendo portante o è la radio che mi sta dando problemi. Ho capito, speriamo che entri qualcuno a dirmelo perché ho paura che sia la radio e spero che sia solo una portante. No, non ho toccato niente, sono tornato a casa, oggi ero da nonna e mi sono costruito una mini stazione lì quando vado lì da nonna. E no, adesso sono tornato, ho attaccato la corrente del garage e ho acceso, ho chiesto se c'era qualcuno, vediamo se c'è qualcosa inserito, però sembra tutto a posto, no, sembra tutto normale. Sì, io sto sentendo portante proprio. Lo sai perché? Perché questa portantina, come ha detto Claudio, o altri hanno detto, non Claudio, aspetta, un altro, vabbè, che hanno detto che ha il dipolo e l'antenna verticale e quindi mette l'ave. Lui prima era di dipolo e non lo sentivi, adesso è in verticale. Sì, si conferma, è più o meno vicino a me. Ok, sta sempre rompendo le scatole, come ha detto Roberto bisogna ignorarli, però non capisco a che cosa serve a mettere portante, se vuoi parla, entra. Ok, riprendo. Comunque, infatti su Twitter lo sentivo, c'era quello che sta schiacciando più volte il PTT. Lo so, però già non ti batte nessuno, è troppo basso, non ce la fa. Comunque è proprio basso basso, sento solo che si sente il PTT ogni volta e che non la smette. Tanto che ce ne frega, se non ci sovramodula a che cosa ci interessa? Oppure non ci interessa, non ce ne frega niente. Ok, stavo facendo una chiamata se c'era qualcun altro, distraseli perché tanto lo sai, sono tutti in ascolto e che non vogliono entrare. Ho capito, sì, di solito se ne vanno per la Benigella e quindi entrano verso le 5 e che non avevo niente da fare, invece che attaccarmi alla PlayStation, meglio sono venuto in radio a cercare qualcuno. Sì, positivo, c'è stato un sacco di collegamenti. mi dico, infatti che cosa ho collegato l'altro giorno? Ho collegato Cagliari, Catanissetta, Catania, poi c'è Reggio di Calabria, Lucca, Genova, Trento, Aosta e Gorizia, con quella propagazione. Capito, anch'io sto pensando che mi devo mettere praticamente in lineare a casa di nonna, perché praticamente è un antennino veicolare ed è troppo piccolo, e così voglio mettermi un po' di vitamine lì, e così arrivo anche a Claudio, perché come ho detto l'antenna è troppo piccola e non gli arrivo, e come ho detto una veicolare da 50 centimetri. Capito, oh, si sente sempre questa portante, perché a un certo punto non so se aumenta i watt, che cosa fa, qualche volta si copre, ma poche volte, comunque la maggior parte del discorso già si sento. Va bene, sto facendo fare gli ex. Pensa che al lupo grigio, vabbè, non sto dicendo niente di male, dico, era felice che aveva collegato Osti, pensa che collega anche fuori Italia da quelle parti. No, ma neanche tanto, io uso questo iColt, quello che è la stazione base multibanda, e lo uso anche per fare gli ex, e l'ho controllato, esce con 3 watt. Che stava parlando. Non ti capisco, non ti sento bene. Chi sei, scusa? Cosa, Claudio, tu lo senti? Penso proprio di sì. Avanti! Avanti non entra. Deve essere finita. È calata un po' la propagazione, non vuole più entrare, cos'è adesso? Boh, non l'ho capito. Adesso stava parlando, aspetta. Ciao, qual è il tuo QTH? Ti copre la propagazione, non ti sento bene. Aspetta, provo a staccare la cassa esterna, se ti sento così ti sento più vicino, che forse capisco meglio. Stavi dicendo, scusa, il tuo QTH? Ma Italia, vero? È perché non ti sento bene, come ho detto ti copre la propagazione. Tu Claudio, vero, lo senti proprio basso basso? Ah, adesso ti sento bene. Ah, ciao. Aspetta che adesso lo sento bene, cosa vuole, ha detto che è da Zurigo. Ma no, io, quello che ti sta chiamando è da Zurigo. Scusami che sono proprio testardo, non avevo capito, e basta, lo copro la propagazione. No, lo copro la portante che stanno mettendo la propagazione. No, ma tranne la portante che si mette pure a rompere le scatole, c'è anche la propagazione che lo stavano coprendo spagnoli. Attenzione Zurigo, se ascolti l'isola sarda, cambio. Isola della Sardegna Italia fa chiamata, Zurigo, avanti. 1-5 Sierra Charlie 78 dalla Svizzera, chiama 1-5. Calma, collega della Svizzera, ti copio al 100%. È la stazione doppio rum della città di Sassari, nord Sardegna. Sei mi intremesso, ciao Patrizio, ben ascoltato, qui ascolti Alfa 21 o Riccardo dalla città di Sassari, nord della Sardegna. Bastardo. Sì, Alfa 21, collega di Zurigo, è Alfa 21 che ti ha super cordializzato. Io sono doppio rum sempre della città di Sassari, avanti. Anche qua in Sardegna abbiamo il sole oggi, ieri pioveva ma oggi c'è il sole. Cosa vorrebbe dire? Non lo so. Scappa, ma non hai un controllo per cortesia, collega di Zurigo, un controllo di Radio Santiago, grazie. Tu vieni da me con Santiago 5, Santiago 7, Radio 5. Ecco, ma tu con me Santiago stai arrivando bassino, la radio è 3, Santiago è 3, dai. Avanti di nuovo, Alfa 21, riprendi tu. Ok, volevo chiedere anch'io all'amico di Zurigo se non lo disturbo, se mi poteva dare un controllo. Ok, anche tu qui sei fortissimo, sei Santiago 8, Radio 5. Ti auguro, senti, ti auguro una buona giornata. Io sento bassissima. Tante buone cose, grazie di avermi fatto entrare qua nel vostro discorso. Vai Riccardo. Ok, grazie Patrizio, anch'io ti saluto. Scusa se volevo dirtelo, ma c'è l'amico di Muros qui vicino a noi che voleva entrare per chiederti un controllo anche lui. Voleva chiederti se ti copi, qui ti stava chiamando Claudio Damuros, qui vicino a Sassari, nella provincia di Sassari, e voleva provare a chiederti se lo sentivi, ma comunque non lo senti, c'è troppo QRM. Ciao Fabrizio! Patrizio era! Ciao Patrizio, ben ascoltato, a sentirci alle prossime, spero di riascoltarti e ti super saluto. Vi super saluto anche a voi, ciao ragazzi, statevi bene, state attenti, ciao ciao. Ciao Patrizio, ciao, cordialità, 7351, a te tutto il tuo QRA. Ciao, buona serata. Ciao Riccardo, grazie, ciao ciao. Con Riccardo, ma si è aperto adesso? Cosa? La propagazione adesso si è aperta. Sì, non lo so, ti dico la verità, io sono tornato mezz'oretta fa a casa e ho acceso 10 minuti fa la radio. Con che radio stai uscendo? Con il K. Ah, appagato, ma vabbè, dai, abbiamo un collegato almeno così. Ecco, ecco. Nel nome a Bulldozer. Riccardino, buonasera a tutti. Io ho acceso adesso, chi c'è Ricca in questo canale? C'è Gianni Doppio Room e Claudio Damuros, cioè sei entrato proprio alla fine, abbiamo fatto un DX in Svizzera. Io ero in un altro DX, capito? Avevo la testa attaccata in un DX e stavo facendo propagazione lì, capito? Avanti, doppio rum. Ciao, ciao Massimiliano, hai sentito? sto guardando questo attacco nuovo per le antenne della macchina, per portabagagli, quello che stava dicendo in giù. Beh, è già una buona cosa che quello, ciao. Aspetta che salutiamo anche a Chiodo Arrugginito, lavoro, avanti Claudio. Ti sento un po' saturo, sicuramente stai entrando con troppi fatti dentro quella Gigio, perché sei saturo qua, eh. Il segnale è 9 ma la radio è saturo. Sicuramente per quello che stai saturando, capito, Cla? Però magari in lontananza questa saturazione non si sente, però io già la sento. Va bene, ok, avanti Riccardo. Ecco. Scusate se sono entrato così, che cos'è entrato Fabrizio a quanto ho capito. Comunque lo saluto e saluto anche a te Bulldozer che non ti avevo salutato. Ok, ah, ciao Riccardo. È ben ascoltato, boh, ho sentito un break, avanti. Buonasera Gianni da questa parte, buonasera, buonasera a tutti, buonasera. Non so chi c'è, ma c'è adesso. Comunque, buonasera a tutti, dai. Poi Gianni Rubrefetta, buonasera, è ben entrato dopo qualche giorno, va? Così, Ramadan, vedi. Va bene, è compagnia mia e di Riccardino, Gianni lo più rutto. Chiodo Ruggiroso, avanti per chi vuoi. Bene, bene, dai, salutoni, salutoni a tutti, Gianni, Riccardino, Massimiliano e Claudio. Dai, vediamo se mi sente Claudio. Buonasera Claudio, mi copia, avanti. Abbiamo il portantista misterioso che va lo dito cancarato. Vabbè, oh yeah. Va bene dai, qua ti hanno coperto Claudio, comunque dai salutoni, vediamo un po' dopo se riusciamo a sentirci meglio, dai, avanti Riccardo. Ehi, comunque ti saluto Brevetta e Gianni, com'è che non sei più entrato? Stavo facendo altro, dai, stavo sbrigando alcune cose, quindi ho mollato un po' la radio, dai, e niente, adesso l'ho accesa e siamo qua, dai. Bene Meda, sta arrivando forte, molto meglio rispetto alle altre volte, adesso riesco a sentirti, se riesci però a avvicinare la bocca al microfono è anche una meglio, dai, avanti. Perché ho piazzato l'antenna nuova e tu non l'avevi sentita ancora. Ciao Gianni. Ciao Alfa 1, buonasera. Ben entrati tutti, dai. Ok, sì, adesso diciamo che il segnale va molto, molto, molto meglio, dai. Dai che facciamo entrare Natalino, avanti Natalino. Buonasera a tutti, non ho fatto ascolto, mi direte chi c'è. Ok, avanti Gianni, fai girare. Ciao prefetto. Ciao doppio. Buonasera, buonasera. Dai, giusto per far sgranchire un po' il microfono. Allora Natalino, siamo io, Massimo, Gianni, Claudio Damuros e Caterpillar dall'altra parte che lo facciamo entrare. Avanti Massi. Ciao Natalino, ben entrato, buonasera. Ciao Massimiliano. Oh iaia. E beh, come mai mi hai sentito? Adesso mi senti Gianni? Ma Natalino, domande da fare insomma, se voglio prendo, come si chiamano, i lacci che usano i stoccatori dalla cavalcata e ti tiro l'antenna. Già è vero, ma se ci affacciamo alla finestra parliamo ugualmente. Mia zio Natale che è entrato, quello che mi definisce cocuomane. Mamma mia, quel cocuomane di Riccardino c'è, ciao Riccardo. Ciao Natalino. Fai girare Riccardino, dai, dai. Facciamo venire avanti Muro. E sai che Muro sta bruciando un dutto, stava parlando, non è più uscito in radio. Però Riccardino, c'hai un'alternata spaventosa sotto. Fabrizio fra un po' mi porta un alimentatore più forte. Andale. Hai detto Riccardino, c'è tutto il service. Io, è tutto sen service, capito? Schiocco di dita, è tutto a posto. In divisa ha fatto la stazione l'anno. a fucile tutti. È bello dritto, Emi, Mi sembra che ne smonto tutto, conservo tutto e chiedo se ci avete qualcosa anche voi da darmi. No, no, devo fare come Walter, devo accumulare, mi piace vedere tutte le radio. Sì, fai come Walter, fai. Tuo padre ti ringrazia allora. Sono sempre in cerca di altre radio, non me ne bastano mai. Ma almeno soldini conservati ne hai? Certo che ne ho soldini conservati. Ah, allora va bene, perché arrivare a quello che c'ha Walter ce ne vogliono un po', eh. Avrei visto la collezione di Walter, Riccardo? Già l'ho vista. Sì, ce n'erano un sacco che mi piacevano, soprattutto i vintage e poi i K ce n'erano. E il coso, il DAC, non l'hai visto? No, non l'ho visto, dove era il DAC? Sempre nella collezione, se non l'ha dato, ce l'aveva. E lui c'ha quello proprio, quello più perfetto, ne sono arrivati due, uno che aveva un piccolo problemino, ma da niente, dai. Aveva una manopola che sicuramente ha preso qualche colpo e era storta, poi vabbè l'hanno aggiustata. E l'altro era proprio perfetto, quello perfetto l'hai visto. Tu sei imbagliente, ma quello perfetto è il mio, quello di Marco, il suo è proprio un carraggio. Ah, è rimasto a lui questo. Gianni, Gianni, se non le sai le cose non le dire. Io so, a me mi voleva bene, me ne voleva bene, ed è uno che aveva la manopola che girava male, tutto lì. Poi non è che ho detto chissà che cosa, tu sei cazzo sempre, sempre aggressivo, sempre cazzo, ma tu ogni cosa le fai una storia. Io le faccio una storia, ce l'ho io quel DAC, non c'ha niente, la manopola è stata cambiata prima, se tu dici le cose e metti in atto, cioè chi è presente, il DAC ce l'ho io, quello che ha venduto che non hai preso tu, e quindi ti rispondo, non c'ha niente, aveva una manopola storta, è stato cambiato il potenziometro ed è più perfetto il mio che il suo, ho detto qualcosa di male. Se tu cerchi la gente, il DAC ce l'ho io, lui è Marco, quindi quello di Marco e il mio sono più perfetti di quello suo, devo aggiungere altro. Non lo voglio più, dai, non lo voglio più io. A me mai ci rimettere troppo per malocio, tu, cosa ne dici? Ciao Riccardo, buonasera a tutti. Ciao Claudio, ben ascoltato anche a Dollaro. Ciao, ciao, Fica, ciao. Claudio, non ne voglio più, no. Domani vengo a prenderlo. Vieni Giulio, non c'è problema, non c'è problema, facciamo conto al legno. Conto al legno, cioè, si può fare. Tutto si può fare nella vita, basta avere la testa per fare le cose. Fate girare, dai, sono qua comunque, scusate se sono entrato a rispondere così, eh. Se sei di conto a ferro, mi dai io che voglio con me. Ecco, Vannino c'ha conto a ferro, io faccio conto al legno, dai. Massimo. Chi è rimasto qua? Scusate che avevo... stavo mandando un paio di messaggi, là. Dove è Benicio? Sì, ci sono io. Ah, ok, là. Va bene, ok. Ehi, Massimiliano, stavo ascoltando un messaggio, già è così. Va bene, va bene. A che ora deve passare? Roberto ha detto che viene quando chiude Riccardo, dopo le 6. Tanto il microfono te lo sale lui, quello che gli ho dato io. Fabrizio a che ora viene? Viene tra un po', ha detto che viene alle 5:30. Vabbè, dai. Se dobbiamo fare quelle prove che abbiamo detto, chiamatemi per telefono, ok? Ehi, già ti chiamo. Sì, lo so, Roberto mi ha detto come finisce. Sì, sì, era al telefono poco fa con lui, dai, ok. Va bene, riprendi il buffet, ciao, buonasera. Ciao Claudio, buonasera, ben entrato. Saluto anche a Giulio. E poi c'è, mi arriva il segnale basso pio pio che non riesco a sentire. Comunque salutoni anche da quelle parti. E niente, dai. Ero al QTH piccolino, come dice Bulldozer. Avanti, Massimilia. E almeno sfondato, dai. No, no, è roba leggera, dai. Roba leggera. Te al limone. Eia, fermentino, dai. Che se caso un gas, buono il figo. Oia, sempre come a te, sì, sì. Oia, oia, oia. Bene, bene, bene, bene. Ascolta, Massimiliano, da te è variato qualcosa per caso? Di che cosa? Di segnale radio, no? Santiago 9, sì, radio 5. Benemera, benemera. No, non si sa mai che l'acqua dei giorni scorsi abbia, ma voglio dire, ho contratto l'antenna, cioè, già è tutto a posto. Ma volevo sentire, ero curioso di sentire, cosa, chi è che va a piazzarsi la boomerang? Aiutami. Giuseppe, ma mi pare Giuseppe, non è neanche più entrato in radio, figurati. Perché ero curioso di sentirlo, visto che si va a piazzare l'antenna uguale alla mia. Giusto per avere una comparazione, dai. Avanti Giulio, se sei in ascolto. Sì, sono in ascolto, ti saluto, però non ho un ascolto. La Smaglia, ti mando un messaggio su WhatsApp di un animale che me l'hanno preso, che non so, non ho capito che animale è. E dallo stomaco dell'animale mi hanno tolto un corpo umano. Te lo mando, se lo vuoi vedere, se non ti fa senso. Manda, me lo manda. Ok, dai. Mi prendete voi, dai. Mi prendi Gianni, l'ubra offetta. Benemera. Non so se Claudio ha ripristinato la padella, vediamo un po' se ci sente. Claudio da Uschi, avanti. Da Uschi? Vabbè, oggi è sbagliato, dai. Stavo pensando alle panadas. Claudio di Muros. Non c'è il radio, cazzo. Claudio, cosa hai combinato? Non c'è il radio. Cosa si vende, cazzo? Cosa ci vende? Tu hai detto, c'è quella LAN 48, come la sta avvisando ieri. Ma cosa ci combinendo? C'aveva la LAN 48, ma ci ha attaccato un lineare e poi è sparito di radio. A me si è bruciato che cosa. Sì, ma sei molto basso, sei basso di radio, esci meglio senza niente, con quegli 8 watt che dà il baracchino, a quel punto lì, chi ti ascolta, chi non ti ascolta si mette le cuffie, non si mette i voci. Non lo so cosa dirti qua, stai uscendo male, avanti il break per un controllo. Ciao Sandro, Caino, dove sei? Da Abele. Ehi, tutti a Cappapattango, ma sei a casa? Ehi, sa, va bene, vediamo un po' se ti ha ascoltato Massimiliano e compagni, vai Massimiliano. Ciao Sandro, sono Gianni, non Massimiliano, Gianni doppio rum. Kappa. E cosa sei, in camion? Kappa, adesso qua siamo, dai, non c'è problema, avanti Massimiliano. Riprendete però. Ciao Sandri, buonasera, ben ascoltato. Avanti, Giulio, vuoi riprendere? Se no riprendo io, cioè, ciao Sandri. Sto guardando un video qua. Te lo mando, se non ti fa senso, te lo mando. Cosa ho amato giù? Deve essere un coso, come si chiama? Uno di quegli animali che vive nell'acqua, uno. Vabbè, lo stanno sventrando e ne stanno togliendo dall'interno un corpo umano. Te lo mando, se non ti fa senso. No, ma dai giù, mamma mia, mi fa schifo, non senso. Ho visto Giulio, una racconta, ci ha mangiato un cristiano, là. Sì, a te le immagini, Massimiliano. Non è possibile. Che cazzo ci mangiano i vitelli, queste cose così, quello è una racconta. Ah, quel serpente enorme, quello gigante di fiume, se non ce lo vecchia. Quello non solo è cristiano, ci mangia tutto, ci mangia Giulio. Che cazzo, ma è impressionante, non è tanto la testa della persona e poi qualche acqua anche. Non è possibile. Sì, ma qua c'è proprio pezzi di braccia, di gambe che le stanno togliendo la vento. Pucci. No, l'ho fermato giù, fa un po' di senso. Aspetta, per quello che te l'ho chiesto, se vuoi vedere. No, non me li manda a me, no. Lascia perdere. Quelli non ingoiano intero il cristiano. Sono enormi che si sono qui. Può ingoiare quello che vuole, fa sempre schifo. Avanti Claudio, stai uscendo malissimo, non mi piace oggi. Allora, ieri notte stava modulando il padre e piano piano è scomparsa la modulazione. Sicuramente sta usando lo stesso lineare, magari un martelli sul lineare. No, no, ci siamo, non non ci siamo. Ti ho detto che quella da 48 c'ha 10 watt, 10 watt, l'ho provato io, lo usavo io. Tant'è vero che il lineare non ne attaccavo, ok? Perché satura, sei satura a morte. Per usare quel linearetto che hai tu, che non è un 747, devi usare almeno 3 watt, 3-4 watt, non di più. Al limite attaccati, o Claudio, un'altra radio che ha quei 3-4 watt e gli attacchi quel linearetto. Ti ho detto a poco fa che la saturo. Ma rischi anche di fare danno alla radio, non solo. Perché oltre alla saturazione c'è anche un rientro di RF, quindi... Il 747 si può usare con quella la 48, ok? 747, altri lineari con 8 watt così, piccoli, transistorizzati, non ne puoi usare. Ma io, claro, neanche con 747 ci sono entrato con 10 watt dentro, perché sì, al limite con 10 watt. Io l'ho usato sempre con 5-6 watt, esce molto molto meglio. E infatti anche io. Anche io, però c'ha 8 watt di portante, capito? Poi picchi modulazione non ne ha, picchi modulazione, perciò non sono 10 watt, infatti era al limite, quando lo usavo ero al limite proprio, ma con me però, con me, con la mia voce. Invece lui non c'ha un 747, è un'altra radio, un altro lineare, quindi satura parecchio, non va bene. Staccalo qua, dammi retta, che ci rimetti la radio, quella radio funziona bene, usala senza niente, se devi usare un lineare usane un'altra, perché se no non va bene. Natalino, vuoi riprendere? Magari, vabbè, le carte riprendi tu, dai, riprendi tu e fai girare, sei fortissimo, è 9, più di 9,20 mi stai arrivando. Sì, lo so, che sta arrivando fortissimo, il problema è che praticamente, come avete detto, ho il problema dell'alternata con questo alimentatore. E già si risolve l'alternata con l'alimentatore, non ti preoccupare. Adesso te lo cambia Fabrizio e si è a posto. A me interessa sentirti bene di radio, perché quella radio che hai, che vuole la mia, deve uscire così, io sto usando la stessa radio. Quindi dopo, quando viene Roberto, provate il microfono che ti ho mandato io, che quello è nuovo, dentro la busta, è ancora imbustato quando lo vedi quel microfono, nuovo, quello tanto. Lo provi e vedi, se vai meglio, ok? E poi già, non ti preoccupare, già ci sentiamo. Sì, già va bene. Vabbè, Gianni, riprendi. Sì, già. Chissà che, non me ne sta uscendo bene, non sta più né fischiando né nulla, sta uscendo bene Riccardino, la radio è bella forte, così sta uscendo bene, vabbè, ha fatto anche il biesco Zurigo stasera, hai tutto contento. Adesso stai uscendo, adesso sei tu, 9 più 10, che lineare hai attaccato? Sì, ma adesso cosa stai usando? La 48 senza niente. Cioè, meglio di così non si può uscire. A meno che, ti ripeto, non hai un 747, allora rimani al limite, ma sono sicuro che vai meglio di quel linearetto, capito? E già vi ho sentito, Riccardo arriva fortissimo, è arrivato anche più forte di voi, mi sembra. Arriva bene perché, vabbè, c'è la radio che spinge un po' di più e poi c'è la posizione che è molto buona quella. Ok, vedrai come esce stasera con l'MC80 su quella radio. Vedrai Riccardo, quel 60 c'ha problemi. E attacca l'80, non metterti a attaccare altri microfoni. Usa quello e fammi sentire quello. Ok, avanti, io Massimiliano, riprendi, fai girare per Gianni Rubrofetta. Io sono qua, e adesso quando io, allora, il radio sta uscendo benino, là non è questa grandissima radio come sta uscendo, e oltretutto, vabbè, risolverà il problema dell'alternata che si sente molto e va bene così, dai, avanti Gianni Rubrofetta. Stavo gironzolando su internet e ho visto un microfono, un palmare vintage, molto molto carino, della Shure, non vorrei sbagliarmi, credo che sia il 401, è grigio col tasto rosso, qualcuno di voi lo conosce? Shure, a 20 euro, Shure, K positivo, Shure 401 credo, è grigio col tasto rosso. Non è quadrato, è tipo triangolo. È un palmare, va, Claudio. È grigio a topo, tipo ZG, però ha il PTT rosso. Sì, lo conosco, ma non l'ho mai usato. Non lo conosco, so che microfono è. Vediamo se esce bene. Ma io non ti prendo il microfono da tavolo di quelli vintage che vanno meglio di quelli gagati. No, vabbè, stavo solo guardando, stavo guardando dei microfoni d'epoca, compreso altri microfoni, palmari però, già lo sai, a me piacciono i palmari, capito? Quelli da tavolo, non mi ispirano, dai. Anche a me non mi ispirano, mi fanno ispirare. Io e quanto sì, ti piacciono i microfoni. Altra guba c'ha un'altra cosa in mano che non ti puoi grattare manco la reccia, entra a tizio di un naso, vai Massimiliano. Sì, infatti è così. Vabbè, questione di abitudine. Allora c'è, vabbè, tu già c'hai Facebook, su questo aspetta che ti leggiamo, aspetta che te lo dico subito, bello bene. Sto parlando con Gianni Rubeffetto. Su Marketplay c'è, se tu scrivi microfoni vintage, c'è un microfono amplificato ed è intorno alle 20 euro. Ma cos'è, un gruppo Facebook, Massimiliano? La banca, mi dà il tavolo. Capito? No, niente il tavolo, Massimiliano. Un bel microfono vintage, è classico a mano, dai. Senza fare allusioni. Senti, poi ti piace appoggiare le mani, bro, più la cosa, oggi compreso. Va bene, avanti di qua. Che seria. Vado avanti, sì. Invece per me è il contrario, io li odio i palmari, li usavo quando non ne trovavo altri e meno male adesso ho scoperto quelli a tavolo che sono molto più comodi. Bene, dai, scuole di pensiero diverse. ho visto un vecchio Motorola, quelli che usava un po' di tempo fa la polizia americana, molto bello, esteticamente è molto bello, non so se magari funziona bene, per intenderci praticamente è lo stesso microfono che usavano Starsky Hutch. Bello, vanno bene. Cosa c'è su Facebook, Massimiliano? L'hai visto? Sei entrato su Facebook? Ma non l'ho detto io visto. Guarda sopra in alto dove c'è quella casetta, cliccaci sopra. E scrivi, guarda che c'è la lente disegnata. Clicca sopra la lente e scrivi microfoni vintage. E ti dà questo vintage che si assomiglia allo Sugar. 20 euro. Da banca, da tavolo. Ma ecco lo Sugar, no? Lo Shure è un'altra cosa, non si vede, questo si assomiglia ma non è Shure però. Infatti ho detto tipo lo Shure. Se ma cazzo con 20 euro non prendi manco un microfono palmare, giù mai. Sì. 20 euro sì. Il più basso che ho pagato è 50 euro l'uno, io ho fatto il grotto, fatto che a 20 euro, ma sono convinto che ho pagato prendendo il microfono. Order di cosa? Capito? Vabbè, lasciamo perdere. Cosa stavo dicendo? Un'altra cosa. Ah, ma ci vediamo, ti volevo fare una domanda. Dico, lo ce l'hai anche tu. Ma tutte e tre le scale a te ti si illuminano del Cobra? Calibrazione, vatti, metro, rosmetro, tutte e tre le scale ci hai illuminate tu. No, aspetta, Claudio, non ti sto seguendo, in che senso? Del Cobra. Ci sono, c'è la scala del segnale, no? Dello smitter, così chiamato. Poi c'è la scala della calibrazione, la scala dei watt e la scala dell'SWR. Tutte e quattro ti si illuminano, sì. Beh, certo. No. Ok, pensavo che questo avessero fatto qualche modifica, invece che è nato così. No, è così. Aspetta che... un Astral si chiama come microfono questo qua, lo conosci? W2 di Astral. W2 sono dei buoni microfoni, vanno benissimo, però lo Shure è superiore. Lo Shure ha una bella modulazione, tipo lo Spander 500, anche perché è un bel rasone così. Quindi funziona benissimo. Io ho provato quello delle gain, che è anche una bella modulazione. situazione anche quella. Infatti vabbè, già lo sappiamo. Quanto stavo dicendo un'altra cosa, invece i puntini, girando il WFO perché è a sintonia continua, ho fatto un questione in 10 metri col Cobra, 180 watt in banda laterale, Massimiliano. P&P, senza nulla da fare, addirittura mi ha detto, ma è una radio che sta per scoppiare. Tanto speriamo non scoppia adesso che sto parlando con te. E me l'ha fatta abbassare, da 4 me l'ha fatta portare a 2 in banda laterale, perché dice che era troppo forte. Segnale malato, 9+20, con l'antenna sua però, con l'antenna dei 10. Di 10 metri, la nuova banda dei 10, 9+20, in provincia di Catania. E praticamente nel display appare 28.400, cioè è continuo sino a 32. Sì, è così. Mamma mia, radio questa. Bella, veramente. Ho detto, devo provarla in 10, poi ti faccio sapere, ma c'è una ricezione, una trasmissione allucinante, poi c'è collegata la colonnina, la parlante del 430 che non la uso, capito? E quindi una modulazione e una ricezione fenomenale. Ma non ho dovuto toccare neanche lo shift per centrare, niente, proprio centratissimo con decimali 0,0. Va bene, vai, ti volevo dire questo. Avanti, Ricca. Sì, vado avanti. Un attimo che vado in quel perché devo sistemare una cosa qui in garage e devo sistemarla su qui e non ho il tempo di rispondere. 5 minuti e rientro. Va bene, avanti Gianni. Donne Gianni Dopiru. Stavo guardando questa storia del cinghiale. Dice c'è un cane che non è molto serio a caccia, lo sto dando. Si sta facendo il cinghiale. Oh, prefetto, sono arrivati su San Giorgio. K positivo, sì, ho visto il link, sono entrato, ho visto un Astral, ce ne sono due, uno in vendita a 20 euro e l'altro credo a 35 o 40 se non sbaglio. E poi c'è un Midland Classic, un Palmare, bello in scatola, un'edizione speciale, che sembra la Static, quello rosso, si assomiglia molto, dai. Sì, l'ho visto, grazie Massi. No, lo sai che differenza c'hanno uno dall'altro? Se tu lo noti bene, sono due microfoni uguali, solo che uno nel lato c'ha lo slider, cioè massimo e minimo, capito? Sì, ho visto anche quel Midland che è tipo il microfono palmare della Cobra, carino, quello con la retina in alluminio, bello anche quello. Sì. Claudio, ma tu Messenger non ce l'hai, vero? Vabbè, Claudio forse si è allontanato. Chiodo Ruginoso, ci sei? Ruginoso, non c'è. Natalia, avanti. Tutti avviati, andare. Riprendi il Rubrefè. Sì, ho visto l'altro Astra, quello da 40, Massi. Però non mi esaltano, non mi piace, preferisco, come ti ho detto poco fa, ho altri gusti, dai. Lo so, guardate, mi sa pigliare in mano, là, ci ho compreso. Massimiliano. Dimmi. Ti mando una foto di questo che mi aveva mandato una richiesta di amicizia, se lo conosci, che era, deve essere un CB perché mi ha mandato, no, un radioamatore perché mi ha mandato la foto del suo nominativo. Ehi, Amanda, ma la mando. Già sono qua. Ascolta, già c'è anche un bel microfono che questo funziona molto bene, che è l'M300, quello con le calecca, a 25 euro palmare amplificato, l'hai visto? No, negativo, sto cercando, ma è da Palmo? Da Palmo, non è da prendere in mano questo. Sì, perché nella sbarra sua ho digitato il microfono CB da Palmo, però ancora non mi è uscito niente. Guarda, te lo invio io, te l'ho inviato adesso, così non stai lì a cercare. No, mi digita direttamente microfono CB e basta. Andava, esitta. Allora, vabbè, cazzarola. Aspetta che sto provando. Vediamo un po' se esce. Ok, dai. sta a caricare. Boh, adesso non vedo nulla. Anzi, vediamo. Aspetta che apri il tuo link, vediamo se c'è Claudio da Muros. Claudio, il Z5, allora, IT9 CC. Claudio, il Z5, che zona è? Claudio già lo sa. Il Z5, India Zulu 5. Toscana. Dov'è? Toscana. Toscana? Italia 5, Zulu 5, Toscana. Ah, ok. Mi viene a domandare a me, io non prendo nulla. Io non sono radioamatore, io sono CB. Nel doppio room, il diavolo rosso di che marca è? Chi lo fa il diavolo rosso? Vedi, quello devi trovarti, quello è un bellissimo microfono, esce molto molto bene, veramente molto bene esce con i baracchini quel microfono, perfetta, capito? Esce molto bene. La Static Diavolo Rosso si chiama. Come si chiama Gianni in inglese? Red David. Massimiliano, lo conosci? No, assolutamente no. Io no. Forse Claudio. Non ce l'ho io su Facebook. Ne ho poche amicizie su Facebook, io, Riccardi. Ho capito, boh. Ne ho pochissime, ne avrò 7-8 proprio stretti, quelli che frequento praticamente, gli altri no, non mi interessa. Sì, va bene, allora lascio stare. Ehi, Facebook è un mondo che a me non piace molto, è un mondo di giramenti, che basta che si visionano dei giramenti, vivo pure Facebook. Ok, vediamo se Gianni da muro, cioè che ho fisso, dove sia andato a finire. Io, grazie. 50 baracchini, avevamo un giro l'altro tipo lampato, riprendi il più rumore, riprendi. Oh, mi ha tutti avviati, Natalino, mi sono addormentato, Natalino, io non ho riposato nulla, ma non sono stanco, no, di solito la pellicola l'ho comprata, ma la faccio, ho mangiato presto, mi sono guardato un po' di TV e poi sono venuto qua, e stavano parlando con Zurigo. Riccardo, non c'è niente da fare. Io un attimino mi sposto, vado a bere e poi riprendo subito. C'è Vannino anche. Avanti Vannino. No, d'accordo, sono a computer, sto facendo un programma. Lo scrivi, tranquillo, d'accordo, mi fai da sempre. Si è appagato, lui interviene solo quando si è appagato. Manda a me. Mentre viene giù a rompere le balle. C'è grave. Vabbè, dai. Speriamo che entri un po' di propaganda, ma almeno ci facciamo qualche collegamento. Sì, ma tu dici, prima era pieno di gente chiamando dal nord, adesso non c'è più nessuno, è calata la propagazione. La propagazione va e viene, non è che rimane fissa. Se dovesse rimanere fissa, addio. Parliamo solo quelli che abbiamo i segnali alti, quelli con i segnali bassi non li sentiamo più. Per le posizioni che abbiamo, tutti, dalle punti alla zona di Gianni, la tua, la mia, e così via. Addio, non hai visto ieri il casino che c'è, non riuscivamo per poco a sentirci uno con l'altro, lascia che vada e venga la propagazione, se no è un bel casino. E Riccardino sta investendo soldi, no? Il viaggio regalente la roba, e magari gli avesse regalata, così è Riccardo. Ma io sto dicendo che ci stava a fare, nel senso di fare di ex queste cose qua, cosa avete? Allora spiegati, io pensavo di, che ti stavo riferendo a quello che sta comprando, chiaramente sta investendo dei soldi, le piacciono, speriamo che vada avanti, che non si blocchi. Il resto pure è chiaro, una volta che hai le radio e l'antenna e tutto, c'è la passione, ti butti anche a fare di ex, con lui li ha sempre fatti. Stavo dicendo, Riccardo, ma quella direttiva che c'è, il motore c'ha? Sì, positivo. C'è uno stoller il motore, di quelli piccoli? Boh, non lo so, tipo la verità, l'ha comprato Bobo per l'altra direttiva che avevamo, che poi l'avevamo data e c'era rimasto il rotore. E quindi alla fine l'abbiamo piazzata la IAG di tre elementi, però non so che rotore sia. Bianco per me un attimo. Già, sì, sì, ce l'ho anch'io quella direttiva. Quella è una IAG di tre elementi della Sigma, il parallelo M, non mi ricordo chi la faceva. La 27, io ce l'avevo uguale, però Marco Scorpio me l'ha modificata per i 10 metri, capito? Me l'ha modificata per i 10 metri, allungato, ha accorciato i bracci, fatta a misura giusta e la uso come monobanda tra elementi per i 10 metri, capito? Vanno molto bene. Tienila con quella quando c'è propagazione, che magari c'è un po' di casotto, riesci a entrare meglio con quella, capito? Va bene. Allora io richiamo Muros, se no riprendi tu lo più lungo. Muros, è entrato. Sta bruciando tutto. Cazzo, ma io adesso Gianni stare cambiando, facendo, cazzo, boh. Io non l'ho portato quella da 48, tu guarda, c'è l'alimentatore. Quindi la 48, l'MB più 4, boh, basta, finito. No, andiamo avanti, andiamo in garage. Mi lega una radio, l'attacca, senza provarla prima, qui, là. C'è una radio per vecchie. Io quando mi ha dato questa, che è radio vecchia nel senso che non usa, quando mi ha dato il Polmar, l'ho attaccata, non aveva né ricezione né trasmissione. Stavo per telefonarli subito, gli ho detto, ma cosa mai dato? Dopo proprio cinque minuti neanche, ha iniziato a ricevere tutto. Infatti ti ricordi, Massimiliano, primo passaggio, stavo andando un watt e mezzo, poi ho aumentato di corpo a quasi 8 watt, perché sono radio ferme, radio che praticamente sicuramente le tiene lì in vetrina, non le usa mai e quindi si guasta. Meno male si è ripresa a casa, meno male. Adesso è perfetto, no, il primo giorno ve l'ho accesa, non avvia né ricezione né trasmissione. Avanti Massimiliano. Tenendole così la radio e i condensatori alla fine svaniscono, come si dice, là, si scaricano come si vuol dire. Quindi tenendola accesa, magari che c'è corrente, inizia a caricarsi, a fare, inizia a riprendersi un po'. Le radio cardio, lo sai, sono poche le radio che puoi tenere spente, se no almeno, io non dico molto, almeno 5-10 minuti al giorno la devi tenere accesa, giusto per tenerli la tensione. Certo, come ho fatto con Dacchi, io c'era un periodo che l'avevo tolto, ma forse è rimasto un anno, forse no, boh, 7-8 mesi, e l'ha messo la linea d'ingresso, c'è un... l'ho messo la grande, l'ho messa lì per non tenerla dentro l'armadio, per prendere un po' di posto. Sono andato a accenderla e mi sono preoccupato perché lo stesso non aveva la ricezione e trasmissione. L'ho lasciata accesa un paio d'ore, in stand by, e come ho dato la portante e ho collegato l'antenna, ho visto che si è ripresa, adesso la tengo sempre accesa, non la metto più via, infatti mi è qua vicino a me accesa, sono tutte accese, anche il Polmar, il coso, l'altro, il Cobra, tutte accese sono. Io ho le accese in radio, lui però dice di no, cosa le fa? Sì, sì, cosa le fa? Ma poi cosa le fa? Avanti Gianni, doppio numero, riprendi. No, io le faccio girare, perché se le tutte accese mi fischia, come farlo mi fischiano le altre radio. E quindi me le uso una a una, però ogni sera io le cambio tutte, le faccio girare tutte qua. Come fa a fischiare? Io ce le ho tutte accese, mica fischia. Metti diversi canali, ad esempio io sono Bacchi sul canale 40, c'ho il Polmar sul 23, vabbè il Cobra è spento, c'ho lo standard che è sul canale 20 e mica fischiano, c'ho il volume a zero però sono accesi. Vabbè, vedi, quello è il problema del commutatore, vedi, io ho la commutazione della T230 e funziona, quello lo fa quando entra il segnale con i commutatori. Vabbè, tu no, tu non hai commutatori, tu ce l'hai senza antenna, cambi direttamente, quindi meglio un buon sistema, mai lasciare l'antenna attaccata, a meno che non abbia un commutatore buono che chiuda. Il nuovo allo Gianpaolo, nuova chiamato alle 6 di sera, non ricevo più nulla, non funziona più nulla, hanno detto ma cosa stai dicendo? Non funziona più nulla, passo lì, sto scendendo, sono sceso perché il commutatore a 4 della ZG Massimiliano, bello tutto in ordine, tutto già poi è molto ordinato, aggiunto come non è qua, non funziona niente. Io ho detto, ma poi Giuseppe, ascolta, questo commutatore è lì, beh, l'antenna è ghita e io che attacchi, c'era il 140, aveva poi il baracchino, quella base tipo il Galaxy, insomma, un po' di roba attaccata. Ascolta, io lo stacco e metto l'antenna diretta al 140, vediamo se potrebbe essere l'antenna. È attaccata, ha ripreso tutto a funzionare. Ho preso quel commutatore, mi sembra che sia ancora buttato in mezzo al giardino di casa sua, ragazzi. Ma non te lo dite, lo gommo. Claudio. Dimmi. Io ho paura che adesso che mi hai detto questa cosa ho un cattivo commutatore. Non credo che ti sia un cattivo commutatore. Che marca è? Proxel. No, già funziona bene. Non è eccezionale, ma meglio di quello della ZG, guarda, tranquillo. Non mi brucia tutta la roba. No, la Proxel fa cose non professionali, però già le fa buone. Quelli della ZG e commutatori che fanno schifo veramente. Anche a te aveva creato problemi, Gianni, no? Io l'avevo preso nuovo da Fusaro, piazzato, ho messo 2 giorni ce l'avevo. E mi mandava tutto fondo scala, le stazionali fondo scala, a settore del successivo, più vega che corto. Ho preso, ho cominciato a rifarmi tutti gli spezzoni, tutto quanto, ho provato con gli spezzoni, lo faceva di nuovo, una cosa a cacchio. Alla fine ho preso, mi ha fatto perdere tutta la sera, ero sudato, incazzato niente perché non riuscivo a capire cosa è. Preso, ho attaccato direttamente l'antenna, provo e usciva bene. Ho preso il commutatore.